Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi parliamo e partiamo dal tema dell'economia circolare. Il vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, poco fa, questa mattina, ha detto tra l'altro: il nostro pianeta e la nostra economia non sopravviveranno se continueremo a seguire i dettami del prendi, trasforma, usa e getta. Ecco, questo in qualche modo può essere la parola d'ordine del pacchetto appunto che è stato presentato questa mattina, economia circolare per la competitività. Di cosa si tratta? Sono una serie di misure per aiutare le imprese e i consumatori europei ad effettuare quella che viene chiamata la transizione verso un'economia appunto più circolare e forte, dove le risorse vengono utilizzate in maniera sostenibile attraverso un ricorso massiccio al riciclaggio, al riutilizzo. Le azioni proposte, spiega la Commissione, costituiscono l'anello mancante nel ciclo di vita dei prodotti a beneficio dell'ambiente ma dell'economia. Per essere sintetici, è un pacchetto che dal punto di vista dell'Unione Europea ha un valore, pensate, di 6 miliardi di euro. È davvero importante, nel senso che determina con la sua messa a punto, naturalmente oggi la presentazione, quindi il percorso non è completato, determina la modalità che l'Unione Europea con i suoi finanziamenti sosterrà nel tempo a venire. Un processo che non a caso ha coinvolto Timmermans, che abbiamo appena citato, ma anche Erkki Katainen, quindi il vicepresidente finlandese, il commissario Vella, la commissaria Biankowska. Insomma, un pacchetto di grande importanza culturale anche per l'Europa, che non a caso, come era stato annunciato, rispetta i tempi e viene presentato dunque durante COP21. Questa dunque è la nostra prima notizia, mentre adesso parliamo di altri miliardi, e sono tre infatti quelli che l'Unione Europea si è impegnata nei giorni scorsi a versare alla Turchia. Lo ha fatto, come sapete, nell'ambito di una trattativa che in soldoni prevede un ruolo maggiore da parte della Turchia per frenare il grande flusso di migranti lungo la cosiddetta rotta balcanica. Ma naturalmente è un pacchetto a cui sono legate alcune condizioni. Sentiamo. L'esplosione di un ordigno nella metro, l'uccisione del capo degli avvocati curdi e ancora le sanzioni della Russia come ritorsione per l'abbattimento del Su-24, dall'agroalimentare al turismo, passando per gli scambi culturali e l'assunzione di manodopera. La Turchia oggi è un paese più che mai sotto pressione a livello interno e a livello internazionale. Una boccata di ossigeno invece viene dall'Europa con lo stanziamento, deciso domenica, di ben 3 miliardi di euro per la gestione dei profughi. Una bella cifra se si considera che, come è stato detto in occasione del vertice, straordinario Europa-Turchia è iniziale, nel senso che potrebbero seguire altre somme alla luce dello sviluppo della situazione, denari dati in sostanza in cambio di una riduzione dell'afflusso di rifugiati in Europa e di un controllo maggiore delle frontiere. Ma come verranno gestiti e come verrà ripartito l'onere? Solo mezzo miliardo arriverà dalla Commissione UE, altri 2,5 miliardi da Paesi membri. All'Italia è chiesto un contributo di 281 milioni di euro, mentre a fare la parte del leone la Germania con 534. Poi il Regno Unito 409, la Francia 386, la Spagna 191. Molti paesi come l'Italia avrebbero voluto che il grosso della cifra fosse stato stanziato da Bruxelles, ma ciò avrebbe comportato il taglio di altre voci di spesa. Si è invece ottenuto lo scomputo dei contributi dal calcolo del deficit. I 3 miliardi però non verranno versati direttamente nelle casse della Turchia, ma verrebbe creato un fondo su cui depositare la somma, che verrà amministrato direttamente dagli europei. Insomma, alla fine sarà la Commissione ad avere l'ultima parola, ma per la Turchia in questo momento è sempre una bella consolazione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Dunque il fronte delle relazioni con la Turchia, che continuerà naturalmente a tenere occupati i diplomatici, anche noi che cerchiamo appunto di raccontarvelo. In conclusione, una agenzia battuta da poco e un commento che ci riporta la nostra notizia d'apertura di oggi, cioè il pacchetto sull'economia circolare. Erkki Katainen, vicepresidente responsabile per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, dice: le nuove proposte inviano un segnale positivo a chi è pronto a investire nell'economia circolare. Oggi, dice, affermiamo che l'Europa è il luogo migliore per insediare attività sostenibili e rispettose dell'ambiente. Passare a un'economia più circolare vuol dire rimodellare l'economia di mercato e migliorare la nostra competitività. Parola di commissario finlandese. Bene, con questo Intanto è tutto per questa edizione, naturalmente l'appuntamento con Europa 24 per domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.